del fatto della scelta anche del lavorare sull'individuo, ecco, e sull'interno piuttosto che questa non è una contrapposizione di nuovo, però parallelamente allo sviluppo delle reti, quindi di questa enorme diffusione di un'interconnessione in cui l'individuo in qualche modo si perde ed è piccolo rispetto a questo Rispetto alla totalità. grande così, allora puntare su invece se l'individuo è il chiasma e da lì c'è il globo, c'è anche l'universo dentro che è altrettanto immenso, perché la scienza ci dice appunto che c'è un fuori immenso, altrettanto c'è un interno immenso, ecco, quindi è il far vedere che il viaggio infinito è possibile anche dentro. Questo è proprio, direi, sono state proprio le reti di nuovo che mi hanno indirizzato con più determinazione da nel senso che è stata in qualche modo una scelta proprio, dire va bene, l'individuo mettiamolo sul trono, infatti la prima cosa è stata quella. Ed è enormemente importante per le sue possibilità di essere infinito proprio, cioè infiniti stati di coscienza e di sentirsi proprio come continua oscillazione tra questi stati di coscienza, capire che è un continuo ondeggiare anche lui, allora c'è il battito cardiaco, poi le onde, cioè, poi guarda caso sono le onde, il Sì, battito, sono cioè sempre sono figure che tornano. ritmi Sì, però così. questo lo puoi fare, voglio dire, perché questo modo che hai di vedere l'individuo non è l'io cartesiano, ancora una No, volta, di cioè non nuovo. è la chiarezza e la coscienza, No. la scorsa coscienza distinta, eccetera, ma è il riconoscere che anche dentro, appunto dentro, come dici tu, nell'interno in realtà si agitano delle cose analoghe a quelle dell'esterno, rifratte in maniera probabilmente diciamo diversa, quindi c'è in qualche maniera un diciamo, antidoto che non è la vecchia soggettività, cioè Cioè il trovare il boss, no? Come potrebbe l'arroganza dirsi, diciamo, l'arroganza. dell'io, insomma, ecco, Ma c'è anzi, è una. proprio il contrario, trovare l'infinità di prospettive può essere rivolta anche verso l'interno, insomma. E quello non dovrebbe fare paura, insomma. Perché di nuovo il sé, se c'è, è frutto di nuovo di relazioni, ma non è lo scrigno che troviamo Sì, dentro, che dobbiamo andare a beccare tirando via tutto quello che non serve, certo. E ma è soprattutto che è dato una proprio. volta per tutte, non è mai dato una volta per tutte, cioè la vecchia idea che lo sviluppo fosse dal bambino all'adulto, però che il nucleo fosse intoccabile, eccetera, ci accorgiamo che non c'è, Quello insomma, no. cioè che in fondo quanto mi sembra quando individui delle invarianti, le individui sempre in realtà a livello generale, nel cosmo, cioè un archetipo è qualcosa che sta insieme dentro e fuori di noi, non è qualcosa che, cioè non è dice ah io sono questa cosa e farò per tutta la vita così, insomma, io sarò quella, oppure il mondo è dato così, cioè è sempre una relazione, come detto prima, quindi è più. E questo mi accorgo che alla fine, insomma, ti toglie un bel po' di ansia comunque, E sì, diciamo, riuscire a a capirlo, però capire riuscire a questa capirlo non, cosa. forse non soltanto intellettualmente, da quello che mi stavi dicendo è Sì, quella una, è stata no? la È cosa una, più difficile certo, per perché intellettualmente me, è lo si stata capisce, dura. forse si può anche arrivare, insomma, ma è il farsene carne, insomma, quando deve diventare un pezzo del tuo corpo, Io ho quello avuto lì. bisogno della scala al fattore. Cioè, effettivamente, se vai a vedere, ecco, un'altra cosa che amo del computer è che ti consente di recuperare, di vedere tutte certe figure della tradizione così, in modo assolutamente nuovo. Cioè, appunto, Dante, vabbè, sempre l'abbiamo detto che Dante era uno moderno, però adesso in qualche modo lo scopri ancora più, incredibilmente moderno, cioè probabilmente noi nella nostra tradizione italiana eravamo stati molto preveggenti, abbiamo queste figure. Non c'è dubbio, fra il 200 e il 500, ma fra il 200 e il 500 siamo stati anche politicamente, è stato al centro dell'Europa l'Italia, purtroppo è dal 600 in poi che ci sono mancate quelle condizioni, quindi anche la nostra cultura è, cioè, sai, noi oggi siamo in un Novecento in cui siamo, voglio dire, culturalmente periferici, ma non perché lo vogliamo, perché così sono le cose, insomma. Sì. E quindi quando, se tu dici Dante, tu dici Ariosto, Machiavelli, eccetera, figurati, io sono... Però volendo potremmo vedere... Sì, adesso perché... Ecco, allora, direi che appunto questo qui poi si rifà rispetto anche a un punk, visto che tu sei... Cioè, a me va benissimo la via cyberpunk, nel senso che, devo dire, in questi ultimi anni è quella che culturalmente mi ha dato in assoluto di più. Ecco, secondo me è stata la più precisa, proprio anche culturalmente, la più intuitiva, la più esatta, la più approfondita, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me quello che dice, tutto quello che ha detto, può essere anche visto in fondo in modo normale. Io in fondo sono ho un fondo di normalità terribilmente normale. Anche appunto Stellark, Orlan, tutte queste esperienze estreme. Sono proprio così importanti, perché va bene, loro si fanno veramente il culo, è proprio il caso di dirlo. quello che ci dicono, ci fanno recuperare questa. Allora, è vero che Stellar si mette il braccio, però alla fine quello che alla fine tu, come persona normale, che non ti metterai tutto sommato hai il braccio, però guardi il tuo braccio in modo diverso. E lui che con i muscoli dello stomaco fa funzionare il suo terzo braccio ti dice anche che non è che quella cosa lì si muove così per caso, ma veramente potresti, la controlli anche col tuo stomaco ed è strettamente collegata. Quindi da un lato c'è tutta questa tendenza alla spersonalizzazione, all'innesto tecnologico, che però potrebbe essere anche vista, o perlomeno a me piace vederla, come recupero, usi di nuovo le tecnologie in modo estremo per recuperare una cosa che avevi persa. Allora, adesso sentiamo il bisogno di cambiarci gli occhi, guardi, no, i libri di fantascienza, così, che è un ritorno a capire che cos'è il tuo occhio, e allo scoprire alla fine, come è successo anche a me, ti raccontavo quell'esempio che l'illuminazione, diciamo, è stata quando una volta mi sono visto un insetto mentre stavo leggendo lì e ho incominciato a considerare questo insetto da un punto di vista di lavoratore col computer, e ho detto: ma questo qui che hardware ha e che software ha? Dico: ma valutiamolo cosa potrebbe valere? Dico: ma potrebbe valere un 2 o 3 miliardi, ecco. Questa cosa qui, perché è connessione hardware e software, eccetera, eccetera. Ecco. È questo nuovo occhio che ti fa vedere tutto, per cui improvvisamente dici: sì, però posso anche, nel senso, va benissimo perché ti dà delle nuove idee, però può essere anche riduttivo, cioè la percezione, abbiamo scoperto proprio attraverso il virtuale, che non è quella stupidata e quel portare semplicemente informazioni al boss che abbiamo nel cranio, ma che è un mondo, un universo dove si agisce veramente di tutto, insomma. Ecco, sì. Poi quello che ci hanno fatto capire, per esempio, le scienze cognitive, è che anche questo può essere messo in connessione con quello che dicevi prima, cioè il lavoro di Minsky, per cui tu scopri che il cervello funziona senza un centro, diciamo, direttivo, scopri che è lavoro, anche questa è una sorta di metafora della rete, scopri che la rete funziona uguale, se no non andrebbe così, che non ha un centro, tutto collabora, coopera, eccetera, ma in realtà ognuno fa i cazzi suoi, fa la sua rete e per una sorta di armonia implicita o comunque di cooperazione implicita c'è un risultato, per cui tu vedi le immagini, eccetera, non è che uno, c'è appunto, diciamo, l'omino che decide il bianco è così, il rosso è così, il nero è così e quella ha questa forma, è un risultato del processo, non è una cosa, e questo ancora una volta è come dire, come dici tu, la tecnologia in qualche modo ti serve per farti capire meglio quanto di diciamo complesso e di interiorizzabile, esteriorizzabile c'è dentro di te, insomma, esatto. No? Sì, perché è come se sapessimo già tutto, ma se avessimo il bisogno di farlo con le nostre mani per crederci. Quindi ci inventiamo la genetica, ci inventiamo le reti così e poi forse crederemo che è vero che siamo in grado di mettere al mondo delle cose, che è vero che l'informazione si trasmette così, che è vero che la natura si evolve e che è vero che siamo tutti connessi. Insomma. Sì, appunto, dico, e quindi a questo punto sarà soltanto questa dimensione artificiale che ci avrà fatto recuperare una supposta naturalità o una, insomma, voglio dire, perché quello che io trovo di terribilmente sconfortante in tutti i discorsi della antitecnologia comune, insomma, è che danno per scontato che l'uomo abbia una natura non tecnica, mentre invece storicamente l'uomo ha una, cioè l'uomo se non c'ha la tecnica appunto, non è uomo, non è uomo. Insomma, ecco. Per cui allora voglio dire tutte le con le grandi differenze tra appunto la pietra insomma, scheggiata e il computer, però la cosa è quella, soltanto che probabilmente nel corso della storia della specie l'uomo si è un po' confuso l'idea, insomma, nel corso di millenni e millenni, no? Forse adesso probabilmente quello che tu dici può essere vero, perché invece questo forse è un processo di, diciamo, di chiarimento. E forse quello che tu dici anche di smaterializzazione, eccetera, forse è l'inizio di questo cominciare a capire che appunto che non dobbiamo ammazzare quello che ci sta di fronte per dire che esistiamo, ma forse ci basta dopodiché credo che sul breve periodo ci tocca purtroppo essere pessimisti, insomma, ecco. però è vero che da un punto di vista questa cosa un po' conforta, perché dice almeno il suo sviluppo, la sua logica dovrebbe essere questo, insomma, e forse si può anche lavorare perché sia questo. E che forse la scienza è veramente un processo di coscienza. Se non si arroga la prova di dettare la legge, eccetera. Se non viene interpretata come normativa, insomma. Sì, esattamente. E poi lì è tutto quanto lo più della scienza moderna, era questo, ora nessuno dice che sì, però insomma direi da un punto di vista filosofico è chiaro che non è più così, perché da un punto di vista pratico si vede che o tu controlli i processi e li armonizzi con il resto del mondo oppure è la catastrofe, però anche in fondo per questo doveva succedere Hiroshima, perché se non c'era Hiroshima voglio dire non avremmo mai, forse non ci saremmo, o comunque è stata Hiroshima che ci ha fatto rendere conto che si sta correndo verso il baratro, che si sta correndo ancora molto probabilmente, cioè come sempre se non ti scontri col limite, voglio dire, tutti gli artisti, tutti i progettisti credo che l'abbiano sempre saputo questo, no? Cioè, l'aspirazione tutti gli umani, cioè. No, gli artisti, perché per certi versi, in una fase in cui c'era questa separazione, eccetera, sono quelli che l'hanno visto più. Sì. Adesso la mia appunto utopia sarebbe che non ci fosse più bisogno di artisti, insomma, cioè, perché tutti dovremmo essere in grado di comprenderla questa cosa e di lavorarci, cioè non perché tutti dobbiamo fare delle cose belle, non me ne frega molto, ma perché proprio l'arte dovrebbe essere un passo verso questa così coscienza, chiamiamola come vogliamo. Basta, abbiamo detto tutto, insomma, abbiamo detto fin troppo. quello che sono, nel senso che non è semplicemente detto in questo modo, il polo alla fine sono io dall'altra parte, basta, nel senso che cioè, il polo c'è con Flavia e con Sabina, devono esserci delle persone come loro. Il bello è stato proprio il fatto di loro sono persone con la quale io, con le quali probabilmente non riuscirò mai a fare niente insieme, nel senso di dire facciamo un'opera pensata insieme, così. Cioè, nel senso che è la distanza è inesauribile, ecco. La bellezza che probabilmente di cui ci siamo accorti lì a Perugia, anche noi, e lì probabilmente lì per quello sono nati gli scazzi a Perugia, perché è saltata fuori con questa evidenza, insomma. Non è assolutamente negativo per entrambi esaurirci o tentare di arrivare a una sintesi tra noi due, ma nemmeno di accettare pienamente, nel senso lo devi accettare proprio come altro da sé, però accetti anche il gioco di connessione. Ecco. Sì, ho capito, è una, mi sembra una sorta di equilibrio tra il conflitto e diciamo l'illuminazione. Cioè ci deve essere il conflitto, perché sennò non ti illumina e non ti garantisce. Però ovviamente se viene agito, se viene compreso, ovviamente il conflitto è utile, perché certo, se invece si chiude nella cosa, no. Questo probabilmente è... Vabbè, io non lo so, però questa secondo me è una delle fenomenologie possibili dell'autore collettivo. Cioè non è detto che l'autore collettivo debba essere per forza chi coopera in maniera... Difatti, lì secondo me avevamo sbagliato. Era messa un po' troppo così. Sì. Io però, non lo so, continuerei a chiamarlo lo stesso, anche si può chiamare lo stesso autore, diciamo, collettivo, se si mette in luce l'idea che anche chi lavora da solo oggi, più che in passato, è chiaro che è sempre stato un po' così, voglio dire, qualunque artista, qualunque scrittore, pittore, scultore, filosofo si è sempre nutrito di cose che stanno intorno a lui, se no, e quindi anche di polemiche, di contrapposizioni, eccetera. Quello ancora una volta che la tecnologia rende è che rende tutto questo più chiaro, più esplicito, più ovvio, più, perché rende più facili certe cose, più facile la appunto connessione, la connettività, eccetera, e contemporaneamente quindi può anche esaltare questa cosa. Quindi una delle possibili cose che, una delle possibili forme che può assumere questo processo è proprio quella che dici tu, cioè diciamo del fatto che si creino collettivi non necessariamente finalizzati verso un'unica, ma anzi che accettano la loro verità. In altri casi ci può essere invece altre cose, insomma, non escludo che sia. E che la distanza è necessaria, e non necessariamente la distanza deve essere opposizione e contrasto, però deve mantenersi distanza. Ho capito. Cioè, insomma, diciamo occidentali, ma fino a un certo punto, insomma, cioè con un po' di orientamento. Con un po' di orientalizzazione, nel senso che non. Perché sennò se la prendi nel senso cartesiano, insomma, forse anche l'enorme dibattito della democrazia, probabilmente anche lì dovrebbe incominciare a pensarla anche in modi diversi, nel senso che anche di capire che deve esserci questa distanza anzi deve essere in qualche modo alimentata, nel senso che non ci deve essere nessun tentativo di confusione o di venirsi incontro, cioè è giusto proprio che sia assolutamente evidenziata, ma tra tutti, non so, però questo stabilire di giocare lo stesso gioco, e questo non pensare che è uno dei due che porta avanti, ma che quello che salta fuori deve essere sempre il risultato di questa ed è forse lì sarebbe la dialettica che veramente il potere non perde un po' di senso. Però No, però io però, santo cielo, cioè dico, abbiamo capito queste cose a livello individuale così, però poi nel sociale siamo di No, una cioè, lentezza terribile, terribile. mostruosa, Beh, perché ancora una siamo volta, cioè, pre-einsteiniani sì, ancora, no. insomma. Però, per esempio, vedi, ancora una volta in certe zone della rete, per esempio, il modo in cui, per esempio, funziona in rete il mondo scientifico e tecnico, dimostra, o potrebbe far capire che invece ci sono degli altri modelli. Per esempio, adesso leggevo sul modo, su come si costruiscono le, diciamo, decisioni sui protocolli di internet, no? Per esempio, ci sono dei gruppi, eccetera, i quali discutono in rete, quindi elaborano in rete molto più rapidamente, quindi di come Sì, farebbero facendo riunioni certo. una volta ogni 2 mesi spostandosi, e dopodiché sono, diciamo, collettivi relativamente ampi, ma non amplissimi, di alcune centinaia, a volte sono, in un caso sono anche 1.000 o 2.000 persone. Quando c'è una discussione ed è ben esaurita, questi non votano, per esempio, non è che votano qual è il progetto migliore. L'idea è che si devono convincere. No, loro Certo, possono farlo evidentemente perché perché è un sono, particolare, perché sono, sì, però anche lì, insomma, l'idea però non c'è. Questa certo. storia che la democrazia sia sempre e soltanto votare, diciamo, decidere, tranciare o qui o là perché questo Esatto. è. Cioè, loro devono giocare. E quando, perché diciamo, non sempre arrivano, no? Quando ci sono per esempio due progetti alternativi e quando non c'è una convinzione generale piena, probabilmente qualcuno, uno o due, dice no, ci sarà sempre, insomma, quando i gruppi consistenti non si loro li presentano in rete tutte e due, insomma, dice tanto poi lì le cose vanno, Giusto. insomma, no, le cose, Sì. quello che è migliore si vedrà dalla pratica, non dal fatto che noi abbiamo, Sì. diciamo, deciso, votato. Questo devo dire che anche, insomma, questa storia, cioè, voglio dire, noi l'abbiamo assolutizzata, questa storia del voto, storicamente comprensibile perché voglio dire, per andare contro le società autocratiche, cioè, dice almeno voti, che è una cosa, va bene. Però non è che sia di per sé questo grande valore assoluto, in fondo anche i greci avevano cariche elettive oppure tirare a sorte, cioè, allora anche lì, per esempio, il ruolo dell'elezione a sorte, e sono tutte cose che probabilmente la pratica di rete potrebbe riportare, Potrebbe riportarsi. perché potrebbe riportare un tipo di democrazia da un lato, diciamo, escludendo o comunque facendo venire meno la necessità pressante della democrazia delegata, cioè dover Sì. votare qualcuno che è al posto tuo a fare le cose, perché molte cose possono essere fatte insieme, da un lato. Dall'altro, escludere questa paranoia di dover votare su tutto e insomma su tutti, quindi o ti convinci o ti cioè hai altri strumenti Sì. Sì. di formazione di una volontà collettiva, che non sono sempre quelli della contrapposizione e poi di dover decidere una parte fa la maggioranza e l'altra fa la minoranza, Esatto, no? Adesso, sì. anche questo, figurati, so bene che non è che, cioè, date le condizioni, però insomma, uno almeno come idee guida e come pratiche, diciamo, alternative Sì. le può enunciare e può, boh, forse farci qualcosa, non so, Sì. riuscire a cavarci, può essere Sì. una delle Ma possibilità, prima o insomma. poi, tutto sommato, c'è tutta questa insofferenza, tutto sommato, Sì, nel senso che poi voti e il giorno dopo hai questa amarezza certo, di aver votato, di aver generale fatto i già, cazzi tuoi, cioè. comunque, perché si capisce che questo punto della frase rappresentato dal voto è vero che risolve e taglia, però è vero anche che improvvisamente impoverisce, Sì, perché toglie delle insomma, possibilità, toglie, perché sì, esatto, cioè, quindi in questo equilibrio, come questo sempre, tra modo. necessità e possibilità, molto probabilmente gli strumenti della, come dire, modernità Sì. effettivamente non sono più tutti validi, No. insomma, cioè non ti perdi troppe cose rispetto a Sì, quelle che esatto. E poi soprattutto il sistema del voto era per una società lenta, lenta, cioè la certo. rappresentanza era Sì. perché c'era mancanza di comunicazione e la comunicazione era La lenta, come cioè uno rappresentanza viene, andava a Roma, insomma, cioè, certo. parte dalle valli e dice E e vado a dice, Roma e vi vado a Roma. rappresento Certo, la certo. crisi che sono là. Adesso invece è completamente diverso, quindi noi abbiamo questa lentezza sopra di fronte invece a una mobilità infinita Rapidissima sotto, sotto certo. e questo È la scollamento velocità della finisce lì. luce nei confronti dell'uomo che va a piedi o anche dell'automobile che cambia poco, insomma, E rispetto a. probabilmente è nella lentezza che che il potere vive. Vive, certo. E nel mantenimento di questa perché ripresa, è una sì. Perché è una mediazione lenta, una mediazione rischiosa. Sì. Mentre invece insomma, diciamo, il modello della rete è non che non ci sia più mediazione, perché c'è anche lì, ma intanto è una mediazione veloce, è un tipo di mediazione più trasparente. E come sempre poi sai, tu poi si possono guardare le cose anche da un punto di vista, cioè tutto questo esplodere di localismi, di cose, eccetera, che è una delle fenomenologie del diciamo, rifiuto della politica classica, che ovviamente di per sé apparentemente è solo un passo indietro rispetto alle cose. E chi non sa invece che non possa essere la forma certo. distorta, stravolta, alterata, ma invece di qualche cosa che se poi succede un altro cambiamento cambia segno, sì. Cioè che non diventa più, che è, cioè perché non è detto che siamo, dice lì, allora so, per dire, insomma, la Lega che sia un fenomeno, cioè certo di per sé il suo canale politico è quello che è, ma l'espressione non è, sì. non è detto sempre che socialmente indichi semplicemente questo. Sì. Indica dei come dire, processi probabilmente anche di maggiore di appunto di volontà di adeguarsi a questo ritmo diciamo diverso che congiunturalmente prendono la forma queste forme odiose sì. Di diciamo di insomma, separazione di individualizzazione di diciamo chiusura ma che invece un domani in presenza di altre condizioni potrebbero cambiare segno a me sembra che potrebbe sì, essere sì, visto così perché di che figurati voglio dire cioè, l'unico modo per pratica, essere ma... universali è essere particolari certo mentre negli anni 80 invece era cioè questa idea di parificazione standardizzazione negli anni 80, insomma, cioè, 80 perché, questa è la cultura di massa insomma questa è stata la cosa sì. Cioè diciamo il Novecento è stato l'apoteosi di quello che già la cultura francese aveva insomma quando tu dici diciamo l'idea del cittadino e della cittadinanza a ben vedere è un'idea terribilmente impoverente per l'uomo perché non cioè ognuno di noi ha dentro di sé una dimensione che è ben più che il cittadino allora diciamo le teorie democratiche classiche scindono i due campi e dicono nella politica siamo cioè l'universale il cittadino poi nel campo degli affetti privati c'è Hegel insomma l'etica e la morale allora l'etica sono i piccoli affetti, le cose, e la morale sono le grandi idee. E oggi questa cosa va in pezzi. Sì. Allora c'è da un lato il pensiero ermeneutico che riaffonda, dall'altro i tentativi di rifondare teorie morali su basi però che non ci possono più essere, eccetera. Come dire, dal punto di vista delle condizioni materiali, insomma la rete, le tecnologie digitali indicano sicuramente un altro equilibrio tra queste due sfere, tra queste due, un'altra fondazione, insomma, sì. che non è ben chiara ancora quale possa essere, cioè voglio dire, non, il nostro problema è che non abbiamo ancora una vera teoria del digitale, insomma, cioè non abbiamo, insomma, stiamo qua, brancoliamo tutti a cercare di capire cosa va, cosa non va. Insomma. Difatti la lotta e la scommessa della rete è proprio questa, cioè quanto l'individuo rimane salvo. Rimane salvo e quanto, invece sarà. Cioè, di nuovo se ce lo lasciano fare però pure lì io lì sono abbastanza pessimista sì, tu sei pessimista. Sì no io ero un po' più ottimista anni fa e poi sinceramente da piccolo imprenditore padano incomincio ad avere il terrore tutte le volte che so che possono trarre informazioni su di me ecco. Sì, questo no, qui è una cosa che incomincia seriamente ad angosciarmi. Questo è uno dei problemi su cui perché è un attentato, sento un attentato alla libertà personale, perché anche non so, il fenomeno Mani Pulite ha, secondo me, se lo leggi da un certo punto di vista, ha tirato fuori proprio questo aspetto, cioè quando il gioco diventa basso. Vengono utilizzate tutte le taxi che tira fuori i tabulati delle telefonate, le intercettazioni telefoniche, quante volte uno piscia, quante volte dice vaffanculo. Ma anche gli altri lo fanno, ecco, sì, cioè, non è che sia lo fanno i giudici. Degli scopi giudici, magari nobili, esatto. Però usano questi strumenti qua, gli altri pure. Quando sentivo Di Pietro, quando faceva delle cose, devo dire che ero fortemente impaurito, perché dico, ma se mi capita... un tipo così perché tutti quello che la democrazia ha scoperto è che c'è una sfera individuale che se noi andiamo a toccare è in qualche modo immonda, certo, no? Certo. Nel senso che noi ci mettiamo le dita nel naso, andiamo al gabinetto, anche il Papa va al gabinetto. Certo. Allora, una decisione che era stata presa a un certo punto è che sappiamo tutti che andiamo al gabinetto, ma decidiamo che questo qui non è il fatto di che cavi verde o fai delle scorregge immonde a casa tua, non inficia il fatto. Questa è stata la lotta contro le tirannie che invece contro le idee delle cose assolute, contro il pensiero di improvvisamente giustificata dalla modernità, così sta saltando fuori questa roba, per cui va benissimo la democrazia americana così, però quando è eliminano una persona perché ha avuto un amante o perché però sta diventando un po' il fatto che sanno che io in certe ore del giorno sono collegato in rete e vado a vedere, mi interesso di alcune cose, pensare che tutto quello che dichiaro può essere usato, siamo tutti sotto giudizio. Questa è la cosa, mi aggiaccia, è la dimensione non male. Questo poi bisogna, siamo tutti. E questo spacciare, ci crediamo tutti che questa è la modernità. Ecco, questo qui è un po' pericolosino, secondo me. Lì non c'è destra o sinistra, lì tutti stanno giocando col fuoco. Tutti pensando che da questo punto di vista sì. Perché ha una storia di preminenza del bene collettivo, per cui anche te, quindi tu sei. Perché poi lì è il moralismo, no? che prende piede. Se uno sperpera denaro pubblico eccetera, è giusto che tu lo becchi, perché figurati, questo non c'è alcun dubbio che sia. Però anche nei suoi confronti non devi utilizzare il fatto che mette i calzini sbagliati, il fatto che sperpera denaro pubblico, che è grasso, brutto, o che c'ha le amanti, questo purtroppo questa è la, però è la sopravvivenza dentro il moderno delle idee del villaggio, insomma. Voglio dire, adesso quando tu dici il villaggio globale, insomma, adesso è sempre un'utopia, però noi vorremmo qualche cosa che, come dire, ci avesse gli aspetti positivi, comunicativi, di apertura e di colore della vita comunitaria, senza avere però. Io voglio dire, è come quando si dice, vogliamo. Adesso non lo so se questo vuol dire, insomma, volere la botte piena, la moglie ubriaca, però insomma forse si dovrebbe cercare di tentare di salvare quel po' che abbiamo, a cui siamo arrivati, che abbiamo raggiunto eccetera, e tentare di recuperare un po' di quello che abbiamo perso, non di ripiombare ovviamente in una, quando dice la vita insomma tribale, la vita tribale è molto interessante, però insomma, è vero che ha queste caratteristiche per cui tutti sanno i cazzi tuoi, sanno quello che hai fatto, questo è un po' terribile. Vabbè. No, e c'è piacere. Sì, anche perché quello lì sarebbe...